Attenzione, dici. La cipolla oggi, frittata di cipolle, un bijou buonissima, anche a me piace. Ci mette anche il formaggio, a mezzo un po' di pane grattugiato, la cipolla, colla, un po' di sale, sale e ti dà gamba. Leia, sì, credo che mamma metta le stesse cose, formaggio, forse pane grattugiato, no, credo di no. Molti dicono che puzza di cipolla, puzza, vorrei dire profumo di cipolla, a molti non piace. Sembra fare con le cipolle. Eia, eia. Ha lo stesso profumo, a me piace molto, a me piace anche la pizza attorno ai cipolle, a me. Molto buona, molto molto buona. E soprattutto sì, assieme, attorno ai cipolle è molto buona. Sono abbastanza buon gustaio, dai. Anche io, me la cavo bene, va. Come io ci ho comprato delle zucchine, avevo quella di zucchine e salata. Sono molto rinfrescanti, meglio bollite. Adesso ci ho messo anche le carote, me la faccio le salate, sai quanto sono buone. Zucchine hai detto? Zucchine, sì. Le fai naturalmente bollire e poi olio aceto, giusto? Ma le fai bollire per caso nel brodo o nell'acqua normale? E poi le insaporisci tipo sale, olio aceto? No, acqua normale, Marco. Se vuoi il sale lo puoi mettere anche prima. Lo puoi mettere mentre stanno bollendo. E poi io non lo metto perché le metto anche per peso, la metto senza sale la roba, quindi non le metto. Però se vuoi le puoi mettere anche lì il sale quando sta cucinando. Non è, diciamo, una cosa eccezionale, però sono rinfrescato. Ma ascolta, tu ci hai mai aggiunto foglioline di menta fresca? No, quello no. Mi mamma la faceva come la faceva la sua amica, cioè come hai detto tu, le zucchine prima si bolliscono, poi si condisce a olio aceto e sale se necessario, e poi foglie di menta fresca, gli dà un saporino tutto particolare, molto molto buono a chi piace la menta. Infatti un amico ha detto, come menta nelle zucchine? Ha detto, sì, la menta fresca, voglio venire di menta fresca. Non l'avevo mai sentita sta cosa. Nemmeno io, Marco, ti dico la verità, ma ci voglio provare perché la menta ce l'ho anche piantata, quindi c'ho la mia. Oggi è bella giornata, porca miseria, abbiamo voglia di uscire. Io continuo a non riuscire a trovare a coso, come si chiama? A Fusaro. Mi cade sempre la linea quando li telefono. E adesso ci provo al telefono di casa, perché con un normale cade la linea del cellulare. E tu mi dai cosa c'è con il caldo, con la giornata, Fusaro? Perché stavo pensando all'uscita con l'antenna. Ah, il telefono e cade la linea, ma ti avranno messo in blacklist. Dice, mi, qual è il numero di quel rompicoglioni, mi, che vuole queste antenne, queste basi magnetiche, capito? In blacklist. Però, vabbè, una ditta seria risponde, cioè o te la facciamo avere e te lo garantiamo, oppure risolvi in altro modo perché ci abbiamo problemi, ecco com'è. Infatti già io te l'ho detto già da tempo, prendo tutto fuori io, se aspetti di loro a Sassari, e dice poi dobbiamo pagare la spedizione, ma te la pago io la spedizione, non è un problema, perché loro vogliono fare, parlo GBC, sempre un ordine grosso per giustificare la spedizione, te la pago io la spedizione, soldi alla mano. Ma non è così, allora vedi che non è la questione di spedizione, è la scusa che non si vogliono. Oh, forse anch'io lo farei, mi. se fossi negoziante mi vorrei di stare a segnarmi piccoli oggettini da uno, piccoli oggettini dall'altro. C'è una rottura di balle un po', però vabbè. Sì, ma pensa che la roba la sta ordinando, diciamo, contatta. Ma cosa? La che stava è che cosa ordinare di antenne? Gli ho fatto ordinare una boomerang e l'ho venduta. Mi sono fatto ordinare delle Turbo 2001 e quindi Turbo. Il colore della macchina mia nera. E poi le Turbo invece di due o tre colori. Le ho fatto ordinare. E poi quelle dell'Assirio, quelle antenne dell'Assirio, quelle che si mettono sul tetto, là. Quello con tanti radiali, adesso non mi ricordo come sia il modello. Ho fatto ordinare quelle e le ha tutte vendute. A quanto pare non è rimasta manco una, solo quella che deve cambiare a me, che l'ha messa da parte, ed è la Turbo 2001, che è uguale identica a quella che avevo col coso nero e la scritta blu, capito? Aspetta, quelle antenne base ha venduto, quelle che hanno i radiali? Ma per caso la Sirio, mi sfugge il nome, va. E con la 58, adesso non mi ricordo, se l'aveva presa anche Marco, come si chiama? Oh yeah, non mi viene il nome, vabbè, già mi hai capito, quelle delle corna, Scorpio. Aspetta che mi schiarisco la gola, ti dicevo, dovrebbe essere l'Assirio, è sempre tipo leggero, no? Porca miseria, non dico niente. Però il bello di quell'Assirio è che non è come la mia che c'ha questa bobinetta tipo veicolare chiusa da quel tubicino in plastica. Lì ha una bobina esterna tipo mantova, c'è una bella bobina esterna tipo mantova e si tara da lì, capito? Non dalla punta. La mia si tara dalla punta ed era una rottura di balle. Infatti ho detto com'è, esce, la piazziamo e boh. Seguo la tabella di fabbrica e poi dove risuona, dai, tanto bene o male. Fino al calare 90, cioè la mia copre fino al 90 e fino al 90 sotto con stazionari più che accettabili, sotto il 2 mi pare, che poi chi ci va sul 90 sotto, fino al 90 sotto, nessuno, vabbè. Ma infatti, sai cos'è, l'interessante è tararla almeno. Dal canale 1 al canale 40, io faccio 1, 20 e 40, vabbè, il tecnico, quello che ha venduto praticamente l'antenna della LEM, mi ha detto di tararla 1 e 40 e basta. No, io faccio anche il 20, c'è trombanda. No, interessa l'1 e il 40 e basta. Se l'1 e il 40 sono tarati in modo che si può, che è adeguato, vanno bene tutte le altre. E così ho fatto, e mi ha detto, se quell'antenna lì le sta dando ancora fastidio, le tagli a pezzo, sino a quando li dà. Ho provato a tirare 2 o 3 pezzi, lascia perdere, là. Non fa. Gli ho telefonato e gliel'ho detto, ma vabbè, allora faccio una cosa, se la faccio cambiare da Fusaro e poi mi arrangio io con lì. Io. Comunque lì, in quel negozio, chi è di più disponibile? Dei tre, dei due, Marzia forse? Marzia Antonello, a me Marzia mi tratta molto bene, fa sconti ogni volta, eccetera. Anche Antonello in gamba, gli serve quello che si intende di più di materiale civile. Marzia non è che se ne intenda tanto, però se tu gli dici la cosa come la vuoi te la dà. Niente. Adesso io stavo aspettando questa cosa qua. Questo gommino, perché ha telefonato la ditta, la cosa ce l'ha, la calavita, gli manca il gommino, e ha telefonato a sua volta una ditta che vi fornisce i gommini per le basi, capito? Leia, a proposito di antenne, stasera forse saliva a Piazzale Segni Nicola, sempre per fare prove, e solo che bisognerebbe alternare quella che a lui ha un'antenna più lunga per fare il paragone, così per passare il tempo, a titolo di curiosità, capito già. L'abbiamo fatto con la mia, arriva più forte lui, con quella che io ho comprato a Fusano, che vabbè, le stazionali, vabbè, quella che c'ha lui sono 1-1 e 1-2 le stazionali, quindi va bene, perlomeno sulla macchina mia erano così. Quella invece mia non si sono riusciti a scendere da due le stazionali, arrivava più forte lui con l'antenna più corta che io con quella più lunga. Cioè, ma alla fine Nicola, che antenna ha esattamente? Che non ha giù un peso, ma qual è quella da un metro, la mini turbo? La mini turbo c'ha, quella che gli ho venduto io. Con la base buona, quella da 16, giusto? L'EM. Io non avevo trovato la base piccola, gli ho messo quella grande, quell'antenna lì, ma quell'antenna lì va bene, quella più piccola, capito? Sì, in realtà la grande va bene per quella da 2 metri. Quella grande tiene l'antenna da 2 metri, è bella, bella forte, poi è bello che è tutta in metallo, non è plastica come le Midland. E poi che altro volevo dire? E quindi tu attualmente invece macchina stai usando quale? Quella famosa presa da Fusaro della LEM, che però rendeva meno di altre, quella lì, giusto? Quant'era? 1,20 o 1,40? 1,20. Ma non è che non sto usando quella, sto usando quella del SOS, quella che c'ho, che si alza. Ah, sempre quella SOS, sì. E caspita, ho visto che funziona, poi naturalmente come quella del Max, Maxcom, così. Io mi sono accorto dei suoi limiti comunque quando ti allontani, però perché vabbè, poi usato con baracchini c'è più di tanto la ricezione, poi crolla, però è un compromesso. Ma tu pensa che esistono anche antenne da baracchino, tipo la President New York o la PNI Extra 48, che hanno l'identico aspetto dell'antenna autoradio, cioè hanno una microbasetta magnetica, di solito di forma ovale, e poi c'è questo stilo identico a quello dell'autoradio, leggermente inclinato indietro di pochi gradi. Cioè, se tu la metti nella parte posteriore della macchina, perché ci sono macchine che non hanno proprio antenna autoradio, è tutto, credo, incorporato nel vetro, sembra un'antenna autoradio, non si distingue, però la resa sarà proporzionata a quanto è caricata, sono 40 cm di antenna, capito? Però è molto discreta, già, molto discreta. Lui è un genio, genio, tutto bene oggi. E tu, andando a lavoro o uscendo? No, gli ha squillato il cellulare. Ehi, lui quando riprende, o sta andando a lavoro o sta tornando da lavoro, dai. Adesso si sarà rimesso anche il mare, presumo. Eccetera. Poi ci dunque c'era un miglioramento tra oggi e forse domani, poi di nuovo un peggioramento però. Ma io, Marco, ti dico la verità, la stavo per portare dove fanno gli impianti stereo, eccetera, eccetera, vicino a casa, che praticamente è un esperto, che è quello che mi ha piazzato la Turbo 2001, per farti capire. E mi ha detto che lui poteva fare un lavoro, mettermela dietro e mettermi nel parabrezza un'antenna performante della Zendar, che praticamente è amplificata e si attacca al vetro. E si sente benissimo la radio, mi ha detto, e così la metti nel buco, le cose non fai buco. Anche, sì, anche. È una cosa che potevo fare anch'io, però non. Tanto ormai queste magnetiche ce le ho e le uso già. Mi chiedo se questa massa che non fa contatto tra il PL dove abiti e il PL che va al baracchino ci sia sempre stato, oppure una cosa che è insorta dopo. Secondo me si è disintegrata la calza, perché perché sai cos'è, quelle basi magnetiche sono marcate Midland, ma sono tutte fatte in Cina, no? E sono marcate con tanti nomi. Secondo me usano un RG58 scadente come cavo, no? E quindi la calza la prima che si spalda, perché quando gli ho cambiato il PL, perché era rovinato anche, ho visto che la calza se ne veniva via tirando con le dita, così, senza tirare forte, se ne usciva così, come cadono i capelli a chi c'ha, a chi è beccato da radiazioni. Ho detto, bella roba. E beh, tu non sei capace a cambiare il cavo, riguardi la misura, lo fai a misura e ne lo ricambi. Non sai più. E compri RG58 come quello che c'ho io. E quello va benissimo, a me mi è durato una bellezza di 13 anni. E l'ho dato a Luca che era ancora buono. È seccante una cosa solo, quel morsetto piegato che stringe la calza, da aprire, vabbè, va aperto a cacciavite, forzando, insomma, quella è la rottura di balle. Però io ti dirò che se gli cambio il cavo non gli metto nemmeno il 58, gli metto l'H155, che ha lo stesso diametro, ma è molto più schermato, è qualità migliore, c'ha la stessa qualità del 213, pur essendo sottile come il 58. E metti il 155 e vedi se la situazione è uguale. La resa dell'antenna com'è, scusa? Guarda, io non mi sono accorto di niente. L'antenna funzionava, ci aveva peraltro delle stazionarie fenomenali, 1,2 sull'1 e 1,2 sull'80. Ma questa antenna come mai allora se è interrotta la schermatura, la calza? Probabilmente già. Senti la voce che mi è uscita. Probabilmente. Aspetta un attimo che bevo. Ciao Eugenio. E allora dove sei diretto? Cambio. Ciao Eugenio, buon lavoro, ci sentiamo. Ciao Eugenio, se mi copri. È arrivato. Marco, dammi un secondo che prendo il telefono cordolo e sapere se da lì riesco a fare il numero. Eia, prova. Vai pure, dai. Sì, Marco, anche se Marcia mi aveva detto che mi chiamava come arrivava. Magari, sai cos'è, loro sono al bancone, magari gli viene a chiamare a rispondere al telefono. Piuttosto, quella signora che era con gli occhiali, no? Che stava seduta spesso, che non sapeva nulla, poi di quando gli chiedeva adattatori non si avvia nulla. Ma c'è ancora? Ma quell'anziana? Ma non quella col camice nero, è quella che stava seduta, che non sapeva nulla. Non lo so, non l'ho più vista io. Manco io ho visto solo Marzia, Antonello, poi un giorno c'era un tipo alto, capelli grigi, signore di mezza età, che forse mi dicono che potrebbe essere il marito di Marzia. Ecco. Avanti. Aspetta. Ah, tu eri? No, avevo capito, Brecco. Credo fosse un Brecco veloce. Dio Maria. Io in chi su dei non vedo nessuno, tutti. Ah no, qui sono gli motori. Stiamo per dire, tutti in PMR. Non ci viene più nessuno a 10. Sì, vabbè. Non siamo noi, ieri ce n'era di gente. Vabbè, sì, aggiornate, un po' distribuiti 23, 10, PMR, eccetera. Bene. Hai telefonato? Lascia perdere, che anche il cordone sono partite le batterie. Che batterie monta? Normali stilo, cioè mini stilo, oppure quei pacchi batterie col connettorino? No, sono le ricaricabili, quelle della Panasonic, NI-MH. Ma stilo oppure quei pacchi batterie preformati, diciamo? Le mini stilo normali. È la cosa che preferisco, perché ricaricabili le trovi sempre, in ogni logo le compri ricaricabili. Invece quando c'è quei telefoni che c'hanno quelle batterie proprietarie, mamma mia, poi le vai a cercare, non le trovi. Devi ordinare da internet, seppure le trovi. Ma io adesso le metto le batterie, dovrebbero funzionare anche con le normali, no? Ah, con le pile, sì, certo. Aspetta, guarda se c'è. Naturalmente non le mettere in carica per sbaglio, quelle non ricaricabili. Scendi qui da noi, vieni a Lieci, ti accogliamo a gambe aperte, a braccia aperte. E beh, già, funziona. Ma saltate in aria tutto, Emilio, da Gianni. Marco, ho provato e praticamente fa la stessa cosa anche dal telefono normale. Cade la linea. Peccato però. Cioè vuol dire allora che non gli viene male rispondere. Sarà fatto apposta, non lo so, magari ha messo in blacklist e tutto. E vabbè. Quindi o ti telefona lei o ci passi tu fra qualche giorno, no? Non lo so. E intanto devo passare anche a comprare le batterie del telefono, mi sa che mi faccio un salto. Oggi è tardi, che ore sono? Che ore sono? 5:30. Sono le 5:30, sì. Devo controllare se ho altre di queste batterie in qualche altro telefono, aspetta che guardo. Fai pure. Marco, ci sei? Hola, attenzione Marco. Ula. Ma che cacchio è successo qua? Boh, ti ho chiamato e non mi hai risposto. No, forse... Boh, vabbè. Adesso è online. Maria. Online, ah, allora mi vesto e mi vado a fusare, così la leggo chi s'antenna e me la tolgo da mezzo, mi faccio dare la turbo, poi quando arrivi chissà cosa me la bizzo. Aspetta, Bifede, no, non era online, ho detto è tornato online l'apparato, forse c'era un falso contatto nell'alimentazione. Ah, si era bloccato. E ogni tanto si molla la vitina che tiene il cavo nella banana, no? E a momenti c'ha dei piccoli, devo stringerla col cacciavitino. Io. No, vabbè, intanto cosa me ne posso di quell'antenna? Non va, provate mille maniere, alzata, ascesa, sempre due là, meno di due, 1,8, due là, dai. Eia, strano però che non sia riuscito a accordarla. Io ero riuscito a accordare quella della Lenna, quella corta tipo vigili urbani, no? Quella che ha il dischetto di metallo, con quella spirale, un po' lunga e un po' di stilo, dai. E all'estremità forse avevo tipo 1,5 sull'1 o 1,5 sul 40. Quindi utilizzabile ancora, dai, basta tenere i 4 bassi. Ma io non mi accontento di quelle stazionarie, io voglio 1,1, 1,2 al massimo. Io sempre così l'ho avuta l'antenna sulla macchina, 1,1, 1,2, poi quando si sporcava salivano a 1,3 eccetera, allora prendevo, le passavo la navaccia e di nuovo tornava come prima. Eia. Vabbè, quelle erano anche in teniserie, la Turbo 2001, c'è un bel di larghezza di banda, è più tarabile, è più tutto, ma queste, poi questa LEM, mamma mia, anche la Mini Boomerang, un sacco di rogne, stazionarie troppo alte, praticamente per quanto abbassassi lo stilo, lo stub di taratura, le stazionarie erano sempre troppo alte, sempre alte, perché bisognava accorciare lo stub di taratura, proprio accorciarlo o toglierlo addirittura. L'hanno fatta elettricamente lunga quell'antenna, quella Mini Boomerang LEM. Insomma, con i prodotti LEM, quelli scaricati, qualche problemino l'ho sempre avuto. Vabbè. Invece era buona la Boomerang Full Size, cioè la Boomerang normale, standard della LEM. Quella l'abbiamo avuta, andava benissimo. Guarda, a me la Turbo 2001 non mi ha mai dato problemi, a parte il fatto di quando c'era molto smog e la sporcava, abbastava pulirla e ritornava come prima. Quella era un'antenna, ma non di lusso. sono di più, sono di... andava benissimo, da tutte le parti mi sentiva. Ah, Ciao Franco. Beh. Ehi, sempre parlando in due, ciao Lu. Vettura scappellato. Guarda sotto. Bobo, esauriti e sedi. Più Lu. Ui, ciao Lu. Ui, ciao. C'è una stazione che chiama sotto, vediamo chi è. Oh Lu, le misure andavano bene, sì. Ma faccio queste prove, devo fare una specie di modifica. Sì, aspetta, la stazione che chiama avanti. No, già, no, il cavo per una... facciamo i corsi, tipo una bazooka, là. Un attimo, avanti la stazione che chiama. KK, Cagliari, Cagliari, Cagliari, cambio. Cagliari? Fino a Sassari? Pare un po' strano, Gianni. Sarà una presa in giro. Avanti Cagliari, Sassari, l'operatore doppio rullo della città di Sassari che ti super cordializza, avanti. Arrivi basso, Gianni doppio rullo, arrivi basso, ma... Questo è Vittorio, mi. Vittorio, tu sei? Sì, sono io su carico fittizio, mi senti? Sì. Lugaglia di notte. Ma dove sei? Vittorio, Santiago 6, Santiago 6, ma dove sei in laboratorio? Ella. Però arrivi, dai. Nonostante il carico fittizio arrivi. Gianni, Vittorio. Vittorio in laboratorio. Poi l'ho riconosciuto dalla voce. Dalla voce. KK. Vittorio, sempre facendo scherzi. Ma Cagliari, è una cosa impossibile per Sassari, è proprio negato. Proprio Cagliari è una cosa che non ho mai copiato. Tu però, io sì. Sì, va bene, altre banche. Dopo 27 ce l'hai anche tu con Giulio. Fabio, 27. Sì, perché quarto Sant'Elena dove è? A San Camillo. C'eri anche tu, con Giulio, nel canale 10, che pensavo fosse uno che stava parlando là fuori. Tutte le mattine parlavo con i pescatori di Sant'Antioco, quando ero giovane, cappa. Ti portavano i cose, ti portavano i pagelli, come si chiama, i gefali. Perché non ti ricordi Gianni? Il giorno che stavo parlando con quarto Sant'Elena, che c'eri tu e Giulio qua nel canale 10, che è entrato, ha beccato e ha detto sentiva solo a me, l'unico che in tutti gli anni della sua carriera ha sentito uno da Sassari. Sì, mi ricordo il particolare, ma anche da quarto Sant'Elena non me lo ricordo, mi ricordo il particolare che lo sentivi solo tu, e che era fuori qua in Sardegna, ma non mi ricordavo dove. A quarto Sant'Elena, 10 km da Cagliari. Buonasera a tutti comunque, sono qua che vi sto ascoltando, sto facendo corso, avanti il break. Buonasera a tutti se mi sentite, dai, Giuseppe da questa parte, ciao Claudio. Ciao anche a te, buonasera, vai Marco, ci sentiamo più tardi. Ciao Giuseppe, ben entrato. Compagnia di Marco, Gianni, Luca in antenino. Luca, lo senti l'amico entrato? Vabbè, più tardi Claudio se ti stai spostando, dai. Luca c'è Farando. Allora io vado da Fusano, a portare quell'antenna e a prendermi quelle batterie, se no sono senza telefono in casa. Eia, prendile col pirulino, mi non prendere quelle con la testa piatta, mi col positivo piatto, se no non riesci a far contatto. No, prendo quelle normali, quelle normali, sono ricaricabili, due, ricaricabili, porto quelle lì, e se vuole a quelle lì, così me le carica anche bene nell'alimentatore. Sai che forse erano arrivate anche da Lidl, quella marca che hanno loro, costano pochissimo, tipo 3,90 4 mini stilo o stilo a scelta. Non mi ricordo se sono da oggi o da giovedì, cioè se erano da lunedì che arrivavano o da giovedì. Perché sono anche da molti miliampere quelle, sono da 2000, ah no, mini stilo hai detto. Dei mini stilo, ascolta, io vado e attacco in macchina. Ciao Giuseppe, ben sentito, dai. Ciao Gianni, ben sentito anche a te, mannaggia. E beh, hai risolto in macchina poi? No, non ho risolto perché... scendevi sempre così, sempre così. L'italiano non mi andava, allora ho telefonato, a Fusaro, mi ha fatto parlare con l'Alem, mi ha detto di italiani a pezzo, come mi ha detto lui, l'ho fatto e non scendono lo stesso, adesso me la cambiano, perché io ho pagato 45 euro, non è che ce l'ho da buttare su. Beh, normale, no, se l'antenna è difettosa te la devono cambiare per forza, poi Fusaro già è abbastanza in gamba. Sì, ma mi riprendono la Turbo 2001 che mi ha dato sempre molte soddisfazioni, anche se alta, Giuseppe. Ah, Giuseppe. E chi dà la ragione? Se non c'è l'antenna alta non fai niente, mai. Ma come quella che ho io? E allora? Ma sa che te la do. No, che c'è, non c'ho l'attacco. Ma hai l'attacco uguale a quella della cosa, della Opel? No, non ce l'ho più l'attacco. Allora, io avevo preso una Mini Turbo e poi l'ho venduta quella Mini Turbo perché mi volevo prendere quella più grande. Che la Lem ha fatto l'antenna tra la Mini Turbo e la Turbo 2001, che è 1,20 m questa che ho preso, ma non rende, rende di più la Turbo 2000, la Mini Turbo di quella lì. Abbiamo fatto le prove dal quadrato. Cavolo, io adesso non mi ricordo quella che avevo nel secondo camper, me l'aveva presa un collega a Cagliari, c'è un negozio che vende un sacco di cose, non mi ricordo come si chiama quel negozio. Me lo ricordo, quello del rifornitore. No, non quello del rifornitore, è dentro Cagliari, era la... non sai quanto andava bene con l'antenna e ce l'avevo sopra il camper, la Minox, aiutami a dire, la PL, boh, non mi ricordo, comunque se terminava con Minox. La PLC Minox, della Sigma. Bravo, quella lì, ma lo sai quanto va bene con l'antenna? Te l'avevo fatta prendere io, te lo ricordi che te l'hai più di prendere quella? Sì, lo so. E ce l'ha quel tipo di Cagliari, che non mi viene il nome, mi dice che ha un negozio grande e vedeva paracchini, antenne, cavi, di tutto e di più. E grazie, devi uscire a Cagliari, adesso mi deve cambiare questa e questa, ritorno quella lì, mi dà la Turbo 2001 e aggiungo i soldi che devo aggiungere, perché questa non va bene, non si riesce a regolarla. Tu pensa che la Turbo 2001 come l'ho piazzata era massimo 1 euro di stazionari. Figurati, ma quando l'antenna è buona, non c'è niente da fare. Va bene, vai Marco per Gianni. E infatti già alla fine i compromessi sono compromessi. Antenna a 2 metri per la 27 è eccellente. E poi la base magnetica dovrebbe essere resistente perché è già un po' rigida e lo stile è anche spesso, mi dà la 2001. È più spesso del mio. Il mio quanti millimetri sarà? 3 e mezzo, adesso non lo so. Va bene, dai, se devi andare vai già, fai questa commissione, tanto la giornata è bella. Oh, Luca c'è qua. Bene. Marco, Luca c'è. Era qui prima, Luca ci sei, poi è sparito. Tu cari è, ma se te ne vai, scandalo lui non va mai, va bene. Ehi Claudio, comunque avevo preso una cantonata io per quell'antenna, ti ricordo che stavamo parlando della NR770S? Dimmi che stavo accendendo il computer e dovevo fare roba, dimmi tutto. Aspetta che poi ti sposti nel 23 e ti devo dire cosa. Marco. Ehi, che ti avevo accennato che c'era l'Antonio, che poi gliel'avano rubata la macchina. Io ricordavo male. Ad Antonio, siccome l'hanno nominata adesso, Antonio le avevano fregato dalla macchina la PLC Minox, che è per la 27. Non era quella bibanda. Ecco perché c'era qualcosa che non mi tornava quando te l'avevo raccontato. Ma infatti Antonio non era manco radioamatore ancora, c'aveva la Golf e quella cabrio verde, le avevano fregato l'antenna Minox, perché Antonio tra l'altro NR770S non ne ha mai avuto, c'è quella della Diamond lunga, quella 5 ottavi lunga che fa VHF 1200 anche. Vabbè dai, oh Luca, passa al 23 un attimo. Mannaggia, non mi ricordo come si chiama, forse Claudio se lo ricorda, quel negozio che c'è giù a Cagliari che vende proprio articoli per radioamatori, per CPT. Ehi, si è spostato un attimo al 23, appena torna glielo chiediamo, vediamo se se lo ricorda. Io addirittura su eBay avevo trovato un venditore di roba elettronica, roba del genere, e spediva da Cagliari, può darci pure che sia lui, mica si sia messo online anche lui. Sì, ma lui, chi lo chiami televisione, addirittura l'antenna, quando l'avevano portata, addirittura mi aveva detto anche, tu fai l'ordine, poi lui dà tutto al corriere e ti arriva tramite corriere qui a Sassari. E arriverebbe anche in fretta da Cagliari, capito? Arriverebbe pure in fretta, perché non c'è il mare di mezzo. Invece quando ordiniamo da fuori, che ne so, se nel continente ci mette 2 giorni il corriere, da noi ce ne mette 3, perché arriva via mare o via aereo, adesso non so il grosso delle merci come arrivi, boh, dipende dal corriere pure, boh. Ma guarda, io la sera avevo dato mandato per prendermela, perché nel camper non la volevo da 2 metri, se no andava a finire troppo alto. E niente, io l'indomani a mezzogiorno avevo l'antenna completa di cavo, completa di basetta, soltanto che quando ho venduto il camper mi son proprio l'antenna a cavo, non me la sono dimenticata. Sì, io. Adesso dovrebbe rientrare dalla macchina Gianni e vediamo un po', dai, gappa gappa. E mi pare che siamo solo noi qua, non è entrato nessun altro oggi, e poi è presto, molti entrano più tardi in radio, chi troppo tardi anche, e vabbè. Che te devo dire? Sì, ma in effetti sono vari un po' balordi, perché capita che siamo impegnati noi ed entrano gli altri, chi entra tardi la notte, chi entra un orario, chi entra l'altro, ma l'importante è tenerlo un pochino viva questa 27, dai, perché mi pare che sta andando pian piano a morire. Io ci sono sempre, però sono in pausa gelato. Buonasera a tutti. Ciao Gianfra, interessante, pausa gelato, buono. Io mi sono mangiato una bella frittata di cipolle, ho mangiato prima oggi, alle 5 stavo già pranzando, cosa eccezionale. Riprendete voi, perché sennò vi ammalate, mangiare il gelato. Mangia. Vediamo se Nicola è entrato per fare queste prove. Nicola, sei all'ascolto? Nicola. Nicola di Bari? No. Saluto di Argentina. Dove sei, Vittorio? Vittorio, laboratorio. Ti sento male, hai detto dove? Vittorio, laboratorio. Capito, un laboratorio. Ciao, comunque. Ciao. Marco, l'ha sentito Vittorio? Sì, Santiago 7, ha un po' la radio un po' compressa, così insomma, però bene o male arriva, dai. Santiago 7, da te com'è? No, Santiago 6 volevo dire, scusa. No, c'è una differenza, da me è 2, 3. Mi ha detto che stavo usando un carico fittizio o roba del genere, oppure antennine super caricate. Lui ha detto carico fittizio. È probabile. Continuo a mangiare il gelato, però faccio di tutto. Quant'è? Una vaschetta da chilo? No, una di quelle piccoline, metà però, quelle piccole, no, c'è quel formato che vengono da MD. Da MD, ma quelle tonde, alla Amarena, quelle lì? E diciamo che la dimensione è quella, anche se sono in plastica, che sono ovali praticamente. Ah vabbè, quelle saranno mezzo chilo, quelle vaschette, sì. No, dicevo quelle monodose io, quelle la marena fonde. Solo che quelle non mi arriva nemmeno al coso, all'ugola. Ho bisogno di quantità più massicce. Ma io mi sono un attimo allontanato. E ho trascurato Giuseppe, non so se ci sia ancora. Giuseppe? o Franco, ma mi sto imbrogliando i nominativi. Gianni, scende la macchina. All'anima, fa scendere in macchina, attaccare un baracchino. Eccoci qua. Marco, allora, cosa è? Facciamo a farlo, sono tutti intenti ad ascoltare il quaderno. Marco, ci è andato anche qua a mangiare. Marco, sei entrato? Allora, avanti. Ho sentito come chiamare qualcuno, un suono ho sentito, non capivo da dove se veniva da ricevitore o dal baracchino. Per sapere se era Gianni in bimbara mobile. Sì, Gianni ha chiamato adesso, prima ho chiamato io. Gianni, sì, chiamalo tu che facciamo non mi sento. Ehi, non può non sentirti in città. Gianni, ci sei, dove sei? Niente, dai, forse sta in mezzo al traffico. Qua avevano chiuso anche Viale Trento perché c'era uno smottamento del terrapieno, ma speriamo che non ci mettano decenni a risolverlo, perché sennò lì cosa fai? Rattoppi, finché se ne scende tutto, eh? Come il coso di Platamona, la rotonda di Platamona. Come al solito. Questi vogliono costruire senza poi fare manutenzione, capito? Ma manutenzione bisogna farla, sono chiaro che qualunque cosa si deteriora col tempo. Vabbè. Sì. Allora oggi come mai c'è questa calma? Non saprei. Non è entrato, vabbè, Nicola forse doveva entrare oggi, vorrà fare delle prove con l'antenna, non si è sentito. Come Gianfra? No, ho detto che sto andando in QDT, cioè a bassissima potenza, proprio perché per non mi piace uscire con tanti guai. Adesso mi ha ricordato, chissà dove cavolo ho messo quel riduttore di potenza ZG. Da qualche parte sembra un rosmetro, no? Il selettore e te l'attenua fino a circa il 10% della porta alla potenza, cioè non te l'attenua del 10%, ma proprio ti riduce la potenza al 10% circa, dai. Poi bisogna vedere quanto è affidabile quel wattmetro che c'ha, ma poi cosa serve un altro del genere? Quasi tutti gli apparati che voi possono ridurre dal punto di vista proprio della potenza. Il nono la gente cerca di aumentarli. Sì. No, può tornare utili. Per esempio, sai, quando andava più in voga, per quanto certi apparecchi avevano tipo 10 watt non abbassabili, magari roba frutto di modifiche, no? Che ne so, 10 watt, no? Se dovevi pilotare un lineare era un problema perché saturava, allora tu interponevi quello, gli facevi l'uscita che volevi tu, lo abbassavi, che ne so, 5, 4, 3 watt e pilotavi correttamente. Magari baracchini semplici, senza nemmeno la regolazione della potenza, elaborati, più o meno elaborati, eccetera. ZG, la sigla non ricordo, c'è scritto Power Reducer, vabbè, riduttore di potenza. Peraltro usandolo ha fatto un odorino abbastanza sgradevole dopo un po' di utilizzo. Un odorino come di qualcosa che ha scaldato. Certe volte questa roba presa da IEL elettronica, caso strano, prendi un rosmetro, l'HP201 e non segna stazionarie. prendi questo e sembra che funzioni, però ha fatto un odorino come di qualcosa che ha surriscaldato, perché avrà un qualche dissipatore, qualche resistenza eterna. Sembra sempre roba, che ne so, roba di scartirata in venduta per anni, eh. Così imparano a abbassare i prezzi alla IL. Sì, ma ho visto che stanno vendendo altra roba, cioè non si sono convertiti a altri prodotti, droni, giocattoli vari, non è più esclusivamente amatoriale, capito? E poi comunque è molto molto caro. I prezzi, per certe cose, comunque i prezzi baracchini, a Media Globe ce le mette in tasca tutti. Ovviamente Media Globe magari certe cose le porta solo a momenti, no? Però quando vedi prezzi anche di 30, 40, anche 50 euro in meno del prezzo a cui lo vendono tutti gli altri, vedi McKinley, cioè 2,19, no? Ti faccio nipote, 2,19 lì, tipo 2,74, 2,79 da Am Radio Shop. Cioè, una differenza notevole, notevole, notevolissima. Beh, infatti, ma poi la gente guarda, non è scema. La differenza non conta. È un po' lo stesso discorso che capita dal locale all'online, no? Anche stamane stavo cercando un prodotto. A parte che non ce l'avevano la versione più vecchia, che costava, più di quella, nuova. E quindi ho detto sì, come no, cioè, è una cosa esasperante veramente. Ma infatti quando arrivano queste cose alla Media Globe, no? Tipo baracchini, insomma roba di basso, relativamente basso prezzo, no? E arriva a quei prezzi stracciati, se li sbranano, se li sbranano tempo 2-3 giorni, e vedi esaurite le scorte, esaurito, capito? Se li prendono subito, bisogna avere un po' la cosa, la possibilità al momento, se c'è, di prendere un certo articolo. Comunque tutto, Radio HF, tutto più basso la Media Globe. Probabilmente loro avranno un guadagno minimo, più che minimo. Preferiscono vendere, non dico vendere tanto, preferiscono vendere, avere un minimo guadagno, che non tenersi la roba nelle vetrine magari per mesi in venduta a causa di prezzi alti. Beh, alla fine è quello che succede, non è che se non vendi oggi, non vendi domani, alla fine chiudi, perché Media Globe c'è anche il magazzino, molte cose la sera stesso lo fa prendere, mentre gli altri la siamo per le lunghe pure. Naturalmente per la roba di un certo valore raccomandano caldamente la Media Globe e la spedizione assicurata. Certo, se vai a comprare una cosettina da 50 euro, ma forse fino a 100, non lo so, dipende dalla persona, secondo me. Però quando compri radio amatoriali, non è il mio caso, da roba da 500, 800, 1000, 2000, 3000 euro, allora sì che la sicuri, e come? Io penso dai 200 in poi convenga assicurare, dipende dalla persona. Sai perché? Ti faccio un esempio, la spedizione assicurata normale dovrebbe essere, no scusa, la spedizione di un oggetto X, tipo una radio, un baracchino, un qualcosa di non troppo grande, 9 euro, mi pare, 9 euro, fino ai 2 kg, no 9 euro. Se la assicuri lo stesso oggetto, mi pare viene 20 euro in tutto la spedizione assicurata. Quindi se l'oggetto è di poco valore comincia a gravare parecchio 20 euro di spedizione, Se l'oggetto invece ha un valore elevato, conviene assicurarla correndo pure. Naturalmente più elevato è il valore dell'oggetto, più ti costa anche l'assicurazione del pacco. E quello è naturale. Quello è ovvio, ognuno lo trova un po' di norma, vederlo fa sempre pacchi assicurati. Soprattutto se lo vuoi te lo fa anche senza, però con scritto bene a caratteri grandi che te ne assumi tu la responsabilità. Quindi, ma adesso diciamo ai tempi nostri è molto diverso da 5-10 anni fa, in cui molta gente metteva le mani nei parchi, ora stanno molto più attenti, soprattutto da quando è entrato in campo Amazon, capito? È tutta una roba sia costosa, sia che così poco, però Amazon risponde di persona, quindi hanno fatto ad hoc proprio dei contratti con le varie liste. E pensa cosa significa perdere un contratto con Amazon. Amazon ha tirato su tutto il settore dei corrieri, insieme a dei, però se inizi a farti fare la roba è un danno enorme, capito? Quindi se ti escludono poi è chiuso, ti escludono a catena tutti gli altri. Io anche, infatti stavo dicendo stamane, volevo andare un po' a vedere un oggetto, un determinato oggetto, ma alla fine ti avvendi, dice no, dopo 3 giorni me lo faccio mandare da Amazon e risparmio 10, 20, anche 30 euro su questa radio che ad esempio ho preso da Media Globe rispetto agli altri. Stiamo parlando di cifre di 200-250 euro di risparmio, non so se mi spiego. Sì, ti spieghi come. Sì, ho notato, loro raccomandano vivamente, soprattutto se compri dal sito, no, e non da eBay, perché vendono anche su eBay, però c'è un rincaro notevole su eBay, capito? Secondo me è anche un po' più del dovuto, vabbè. Raccomandano vivamente la spedizione, infatti dicono che nel caso di danni dovuti al trasporto, tipo pacchi schiacciati, bucati, mezzi aperti, cioè dove vedi un danno al pacco, non ne vogliono sapere niente. Naturalmente al di fuori dell'assicurazione non c'è modo di rifarsi sulle poste, no? Al di fuori delle, se non fai il pacco assicurato. Però non è giusto, perché le poste comunque stai pagando per un servizio, perché alla fine se tu acquirente che paghi la spedizione, anche se è normale, il pacco non deve arrivare mitragliato, capito? O bombardato. Sì, quello sì. Ma guarda, ultimamente le poste sono sotto controllo, quindi devono stare molto attenti, perché già sono preso una mega sanzione dalla di perché ha detto rispetto ai tempi, rispetto ai tempi, è capitato anche a me qualche settimana fa, che ho scritto proprio a Media Globe il pacco con la radio, c'era la radio, un cosmet, come usato, perché non sapevo proprio, no, a chi venderla questa cosa, quindi ho fatto fare un preventivo da Media Globe, hanno visto la radio, sono rimasti contenti, infatti l'hanno venduto come nuovo, quasi pari a nuovo. E quindi questo pacco non arrivava mai, era fermo a Bologna e non c'era più il coso lì, il tracciamento. Ho chiamato le poste, sì, vediamo, hanno fatto dei controlli, ho dovuto fare un reclamo, dopodiché finalmente l'ho visto muovere. Tra l'altro adesso c'hanno un coso lì, un centro a Bologna, che è enorme, è una cosa da paura, e quindi dovrebbero smaltire meglio. Ma evidentemente col Covid anche la roba che andava al sud, in Media Globe e a Coso, a Bari, in quelle zone lì, veniva direttata a Bologna, dove c'era questo mega hub che di norma serviva al nord Italia, a posto di passare per Roma, no? Quindi forse il ritardo era quello, però l'hanno ricevuto intatto, ma non è tutto bene. io ho fatto reclamo perché mi hanno garantito i 3 giorni, ho pagato per 3 giorni e invece sono diventati 6 tutto lì. Però rispetto al passato sono migliorati in maniera notevole. Come si chiama quel centro di Bologna? Non mi viene il nome, vabbè, porca miseria. E lo vedo, ogni pacco passa per lì praticamente. Ma quasi neanche li toccano i pacchi. È tutto robotizzato. Ci sono tante strade fatte di Cosmo, di quei tappi Zulan, dei lettori particolari, infatti si raccomandano sempre di mettere in evidenza il cocciabate, no? Quello lo legge, lo manda a destra, a sinistra, in alto, in basso, non viaggia come... Ma ne passano ogni giorno a migliaia e migliaia, è una cosa pazzesca. Gianni non ha più ripreso, probabilmente ha fatto prima arrivare in macchina là che montare baracchine e tutto, cioè... Perché dove stavo andando? Io l'ho sentito poco fa quando sono rientrato su, però poi non ha risposto. Poi anche quando si è alla guida bisogna stare attenti con questi microfoni. Adesso sono più mimetici i vigili urbani, polizia locale, prima magari sai, tipo con la camicia celeste, quelle cose lì, insomma, adesso sono più mimetici un po'. Quando non hanno quella cosa fluo, magari manco te ne accorgi, guardi all'altro e te lo trovi mentre moduli col mic in mano in macchina, guai. Quello è un rischio, una trattina. Se no, sono cavoli, perché ci sono i punti, tutto questo. Beh, come il cellulare. Infatti stavo guardando questi microfoni da mettere in quella presa posteriore, micro jack, micro, come il jack 2.5, mono. E la Presidente come accessorio lo vendeva, però dagli Stati Uniti roba di $24, non so, poi non si sa se lo spediscono in Italia, insomma una cosa veramente rara da trovare. Il prezzo è eccessivo. Invece dalla Cina, microfono a condensatore con un cavetto da 2 metri, con la clip sempre da bavero. Casualmente c'è già la spina jack mono da 2.5. Io non so queste capsule condensatore se sono alimentate tutte con lo stesso voltaggio, quello non lo so. Adesso le stanno facendo poi particolarmente piccole Gianfranco, queste capsule, prima erano un po' più grandi, adesso sono molto molto piccole. Non so quale sia la tensione di alimentazione. Vabbè, male che vada si buccia la capsula, non credo faccia danno al... Per esempio in macchina con un apparecchio del genere, sempre i rumori permettendo, sai, se uno va con i vetri aperti, colleghi il microfonino là, al colletto, inizia a urlare e trasmette automaticamente. Sì, ma guarda, l'alimentazione è molto bassa, tanto è vero che quasi tutti i microfoni c'hanno, sono collegati, una parte è collegata a massa, l'altra parte è collegata diciamo all'ingresso e sull'ingresso viene iniettata praticamente da una resistenza da 3.000 km e 3 giù di lì, anche 3.5 km sulla parte microfonica diciamo dove c'è l'uscita BS e tramite questa cosa alimenti la capsula e funziona immediatamente e per quello forse che ho trovato l'alimentazione sul PNI da 5 volte, poi ovviamente dentro c'è la resistenza che la riduce la capsula e questa uscita